Salve a tutti cari amici e benvenuti alla quinta puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino e chiaramente anche il vagabondo in questi giorni non ha potuto fare altro che osservare cosa sta succedendo nel mondo dopo l'elezione di Donald Trump come 45esimo presidente degli Stati Uniti. Devo dire che sono bastati ovviamente pochissime ore per avere le prime reazioni dal mondo dei social network e queste reazioni chiaramente, come ogni volta che si scatena il duale, sono state divergenti. C'è chi ha festeggiato, ci sarà sicuramente chi avrà stappato delle bottiglie di champagne e ci sarà chi avrà iniziato a preoccuparsi, chi avrà iniziato a piangere, forse probabilmente anche una cosa un po' isterica. Ora io chiaramente affronto questo argomento, ma non voglio assolutamente fare politica con questo, sto solo osservando quello che sta succedendo. Dicevamo, quindi, ci sarà chi ha festeggiato, ci sarà chi no, e questo, diciamo, è normale quando si ha un'elezione di questa portata. È normale in tantissime altre cose, quindi figuriamoci per una cosa così. Quello che io sinceramente non approvo è una cosa che è successa fin da subito, vale a dire, anzi, questa probabilmente succedeva già prima che fosse eletto, già nella lunghissima campagna elettorale americana che dura un anno, quindi hai voglia te di tempo ce ne abbiamo per inventarci le cose. Ma insomma, ecco, io ho visto in giro un sacco di vignette, ad esempio, che ritraevano l'ex 4 o 5 volte presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, lo ritraevano in immagini comiche, diciamo, pettinato come Trump, con lo stesso tipo di capelli, ed accomunando i due personaggi. Sinceramente io non sono molto d'accordo riguardo a questo. Sì, è vero che i due uomini politici in questione hanno delle cose che li accomunano, come ad esempio gli essere delle persone molto molto ricche e molto molto influenti per questo motivo. Però fra dire che i due sono la stessa faccia della stessa medaglia, direi che è un attimino azzardato. Questa perlomeno è la mia, come si dice, impressione. Ma tant'è, alcuni avranno delle impressioni diverse dalle mie, ci mancherebbe altro. Alcuni magari solamente giocano un po' con le fotografie, con le vignette, per fare un po' di ironia sulle cose. Allora, dicevamo, le reazioni sono molto differenti. Ho personalmente parlato con un po' di persone, chiaramente anche di questo argomento, e una persona mi ha colpito molto nella sua convinzione, vale a dire, per lui, per questa persona qua, il fatto che ci sia stata l'elezione di Donald Trump sicuramente porterà a una guerra nucleare. Cioè, allora, questa persona se lo immagina lì nella stanza ovale con il bottone rosso, il famoso bottone rosso dei film, pronto con la manino lì sopra, pronto che appena si addormenta brugni, casca la mano e parte il missile nucleare. Sinceramente, una visione così catastrofista probabilmente mi sembra un po' esagerata, però è anche lì, nessuno ha la palla di vetro, chi lo sa. C'è invece chi pensa che Trump sia l'uomo giusto per rimettere in piedi l'America, e allora qualcun altro fa anche notare che l'America negli ultimi anni in realtà ha avuto dei picchi di livello. Però, vabbè, e qui ognuno giustamente dice le sue idee, le sue impressioni, e è bene che sia così, ci mancherebbe altro. Sicuramente quello che Trump in persona con la sua elezione è una voglia di cambiamento anche da parte degli americani. Ora è vero che per questo sistema americano di eleggere il Congresso e il presidente degli Stati Uniti, appunto, è già la seconda volta, già successe con Al Gore, che lo sconfitto, cioè la persona che risulta non essere eletta presidente, in realtà abbia preso più voti del presidente eletto. Però tant'è, così l'America ha questo tipo di sistema elettorale che gli garantisce allo Stato i 4 anni di stabilità, una cosa praticamente rarissima che possa succedere, qualche terremoto enorme durante i 4 anni di presidenza. E d'altra parte, se gli Stati Uniti scelgono questo per avere questo tipo di stabilità, niente da dire, chi siamo noi chiaramente per dire qualcosa a loro. Dunque, americani, avete scelto Trump, o comunque il vostro sistema vi dice che Trump sarà il vostro 45esimo presidente. Io vi auguro assolutamente qualsiasi tipo di fortuna, qualsiasi tipo di felicità, che la vostra vita possa essere migliore e che anche la nostra, perché chiaramente il presidente degli Stati Uniti, con i suoi provvedimenti, condiziona chiaramente condiziona la vita un po' di un po' tutti. Per me, che mi ricordavo Trump nei film, alla fine me lo ricordavo in Mamma ho perso l'aereo, quando al protagonista una scena, insomma, ho scoperto che poi lui è apparso in molte film, molte serie, in episodi chiaramente come ospite, diciamo, e chissà perché aveva questa appeal verso la macchina da presa. In effetti ci sa stare davanti, guardando un po' come sta davanti alla macchina da presa, si vede che si sente molto confident in quella situazione. Io me lo ricordavo in queste cose qui, adesso ce lo ritroviamo presidente. Ma non solo, me lo ricordavo anche quando, durante un incontro di wrestling, lui, che è molto amico del proprietario della WWE, addirittura interveniva durante un incontro con un laccio californiano, chiamato così in gergo, quel tipo di mossa, e fu una cosa molto molto simpatica, molto molto da ridere. Chissà che non gli prenda la voglia di entrare al laccio californiano anche adesso che è presidente, addosso a qualcuno. Auguriamoci di no, e auguriamoci che se lo farà sia per una giusta causa. Chiaramente quello che ha scaturito questo tipo di questa elezione è stato anche il commento da parte di un sacco di personaggi pubblici famosi, americani e non, artisti vari, che siano attori piuttosto che magari musicisti o sportivi di ogni ordine e grado. E generalmente i commenti più numerosi da parte delle star sono di paura, sono contro a Donald Trump, per cui ci sono state anche delle manifestazioni, addirittura in alcuni stati ci sono stati degli incidenti, degli arresti. Non direi, è una cosa un po' strana, una cosa che ci sia così tanta rivolta contro il presidente eletto in questo modo, però tant'è, gli americani stanno facendo questo. Ci sono persone che stanno per le strade a manifestare, a farsi arrestare per questo. Io anche qui è appena ancora non è nemmeno insediato, perché l'insediamento avverrà in gennaio, quindi aspettiamo. Come sempre tendiamo a fasciarci la testa prima di essercela rotta, o comunque tendiamo a vedere sempre tanto di buono o tanto di negativo nelle cose. Ci sono delle cose che non ci permettono di essere critici, di essere obiettivi, perché probabilmente ci sono cose che scaturiscono, che sviluppano in maniera molto più predominante l'ego, oppure le convinzioni personali, per cui se una persona era convinta che la scelta giusta fosse Hillary Clinton piuttosto che Trump, adesso sarà lì a inneggiare alla disfatta, allo schifo, e andrà tutto male, tutto quanto, e al contrario, chi invece magari sosteneva durante la campagna elettorale Donald Trump piuttosto che Hillary Clinton, adesso sarà lì a festeggiare come se fosse arrivato il salvatore. E chiaramente non è vero né una né l'altra cosa, perché io suppongo, secondo me, che la verità di solito sta più o meno sempre nel mezzo, vale a dire, sì, Trump sarà quello che sarà, ha detto quello che ha detto, farà quello che avrà fatto, però chiaramente adesso ha un ruolo istituzionale che prima non aveva, e quindi sarà a conoscenza di cose che prima non conosceva, e chissà, probabilmente certe sue posizioni, certe sue posizioni estreme, diciamo, magari si modelleranno di nuovo, magari arriveranno altre cose, ma oppure magari no, magari farà tutto quello che ha detto e magari sarà anche peggio, chi lo sa. È solo che quello che io dico, non c'è da essere per forza talebani, fra virgolette, contro o qualcuno o qualcosa, o per forza talebani a favore di qualcuno o di qualcosa, perché fino a che non avrà prodotto qualcosa, no, come faremo a giudicarlo? E soprattutto, chi siamo noi per giudicare il presidente degli Stati Uniti, chiunque sia? Io lo dico come istituzione, non perché è lui o perché non è lei. Il discorso è: un semplice cittadino europeo o americano che sia, ma come fa a giudicare quello che farà il presidente degli Stati Uniti? Lo fa solo su una base di supposizione, perché non ha assolutamente, il cittadino normale come me del resto, non abbiamo assolutamente nessun tipo di conoscenza, di nozione per essere come si potrebbe dire consapevoli di quello che stiamo asserendo. Una cosa che mi fa un po' pensare, sorridere, fra virgolette, che come una battuta, chiaramente, e Donald Trump è germofobico, vale a dire, è una persona che ha la fobia dei germi e che quindi preferisce non stringere le mani in segno di saluto. Non so, ora che è presidente degli Stati Uniti, come farà per salutare magari gli altri capi di Stato e tutto quanto, quindi sarà molto carino vedere questo. Chiaramente, come dire, su internet si sono sprecati i disegni, le battute su Donald Trump, su svariate cose. Ne segnalo una da parte di un sito di Facebook, che si trova su Facebook, vale a dire House of Varghi, che è una parodia della famosa serie House of Cards, e praticamente la foto che hanno messo i redattori di questa testata House of Varghi è il ritrae Donald Trump contro Hulk Hogan, e siccome, come abbiamo detto prima, Donald Trump è un frequentatore di wrestling molto molto presente negli anni, è stata secondo me una vignetta molto carina che vi segnalo e magari andrete a consultarla. Bene, cari amici del Vagabondo, siamo arrivati in fondo a questa quinta puntata di Vagabondo in giro per il mondo, fra virgolette, speciale Trump. Ho parlato praticamente solo di questa cosa qua, cercando di capirci qualcosa, ancora è molto poco, quindi ho anche avuto un poco modo di sviluppare tutto, però chiaramente è stato più forte di me, insomma, ecco, lo speciale Trump mi piaceva come idea, quindi chissà, magari in futuro riprenderemo un po' più dettagliatamente alcuni aspetti di questa cosa, quando avremo visto alcune cose che saranno state fatte o meno. Quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qua. Ci ascolteremo di nuovo, come sempre, sulle frequenze della web radio Big World. Cari amici, da Fumino, buona giornata, siate saggi.